sai, non voglio più quel po' d'amore che mi dai. La carità puoi farla un altro, non a me, meglio finirla che una gloria senza te. Yeah.